vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Peter, togli la sigla. Prima di iniziare questa edizione di Spunti di Vista, è vero l'abbiamo già iniziata alle 7.20, ma adesso entriamo nel vivo del dibattito. Io voglio ricordare, la radio è un po' una famiglia, anche se in realtà poi io ci lavoro solo d'estate, ma tutte le estate arrivavo qui e c'era sempre una persona particolarmente sorridente, con un animo particolarmente gentile, e era sempre presente per tutti. Quest'anno non c'è più, io voglio salutarlo, e a lui è dedicata questa edizione di Spunti di Vista. Ciao Rudy. Di cosa parliamo oggi? 15 minuti dopo le 8, 27 luglio, vi abbiamo illustrato tante novità del palinsesto estivo. Questa trasmissione è una, più che una novità, un ritorno. Naturalmente staremo insieme fino alle 10. E questo succede d'estate fino alla fine d'agosto, quando poi tornerà la programmazione annuale, autunnale se vogliamo. A questo punto noi incontriamo sempre qualcuno che ci guarda con occhi diversi. E chi è che può vedere cose che noi non vediamo? Coloro che arrivano nel nostro ambiente, però sono portatori già di culture, di valori, di modi di fare diversi, cioè i corrispondenti stranieri. E oggi infatti ne incontreremo una tra pochissimo. Voglio però ricordarvi il tema della giornata. Vi siete già scatenati sulla possibilità o meno di pulire le proprie città. Sembra una cosa banale, sembra una cosa quasi automatica per molti dei nostri messaggi, quelli che abbiamo ricevuto fino adesso. Cioè, alcuni ci dicono che senza aspettare Gassman, loro, il loro pezzo di città, il loro pezzo di paese, il loro pezzo di territorio urbano lo puliscono già in associazioni di volontariato, per esempio. E in generale, tra i moltissimi sms su questo tema, siete molto favorevoli alla proposta di Gassman. Però c'è anche, e qui non posso citare il nome perché non si firma, qualcuno che dice no a Gassman, sarebbe continuare a vedere il dito e non la luna. Il riferimento al cretino proverbiale del proverbio che quando gli si indica la luna guarda il dito. Gassman ha ragione, ci scrive invece un altro ascoltatore, perché il problema dell'Italia sono gli italiani. Lo Stato deve fare il suo, ma se tutti noi cercassimo di non sporcare, anche questo è naturalmente un appello che si ripete in moltissimi di quegli sms che voi avete scritto. Basta vedere il sudiciume che c'è lungo le strade, il sudiciume nei boschi, sulle spiagge. C'è chi segnala che a Busnago c'è già un gruppo di volontari che aiuta a pulire. C'è chi ci dice Marino un grande sindaco. C'è un po' fuori dal tema veramente, visto che non stiamo né trattando di mafia capitale né dei disastri che l'amministrazione, cioè delle responsabilità dell'amministrazione romana. Questo perché sono temi già trattati. Noi vogliamo un attimo andare dietro quello che l'attualità e i titoli dei giornali di solito non mettono in evidenza. Cioè, se Gassman dice, Alessandro Gassman in questo caso, puliamo, pulite, è solo autopubblicità, come qualcuno un po' maligno sottolinea, vuole farsi vedere, vuole scattare il selfie e poi la città rimarrà coi suoi problemi. Ne tratteremo di questo tema della partecipazione, perché in realtà sono moltissimi gli snodi legati alla partecipazione della comunità. Una delle conseguenze più evidenti può essere questa, quella della pulizia, ma non è l'unica, sapete? Ed è incredibile scoprire che, per esempio, i furti in abitazione, che non sono un reato contro la persona, ma costituiscono uno di quei reati percepiti come tra i più odiosi dalla popolazione, i furti della popolazione hanno a che fare con i furti in abitazione della popolazione. È semplicemente uno sfasamento mio delle 8:18. I furti in abitazione hanno a che fare, lo dimostra un algoritmo sociale, proprio con il fatto che la città sia o meno partecipata, sia o meno costituita da mix sociali, sia o meno divisa in ghetti. Dalle 9 questo sarà il nostro tema, le città globali. prima andremo a parlare invece di una grandissima operazione della DDA di Reggio Calabria, cioè della Direzione Distrettuale Antimafia, forse la più imponente operazione contro il gambling online, cioè il gioco d'azzardo, le scommesse, in questo caso illegali, sul web. E racconteremo perché c'è questo intreccio tra gioco d'azzardo e 'ndrine, perché è tanto facile riciclare il denaro sporco attraverso alcuni aggeggi, chiamiamoli così. Tutto questo dopo aver incontrato, l'abbiamo annunciata, la nostra amica che ci guarda da fuori, infatti è una corrispondente straniera. Si chiama Pirkko Peltonen, è una giornalista e scrittrice finlandese. Buongiorno Pirkko. Buongiorno. Avrei voluto tanto, tanto salutarti in finnico e non trovo più il foglietto dove mi ero segnata. Come si dice? Salutaci tu in finlandese. Hyvää huomenta. Chiaramente, sì. Era proprio quello che stavo per dire io. E da quanti anni ti trovi in Italia, Pirkko? Da 45. E sei la corrispondente per la radio pubblica finlandese. No, veramente non sono corrispondente, non c'è corrispondente qua, sono una freelancer. Una freelance perché non hai... Per la radio finlandese mi occupo soprattutto di temi di, diciamo, cultura e società. Certo. Racconto l'Italia da questo punto di vista. Non c'è un corrispondente vero e proprio che percepisce uno stipendio solo per raccontare l'Italia sistematicamente. È chiaro che in molti casi si tratta di freelance ed è anche chiaro che la percezione che un popolo, una nazione ha di un'altra è dovuta in grande parte a voi. Tu ti sei occupata recentemente di un aspetto molto interessante, di quelli appunto che ci sfugge da italiani. Cioè, hai parlato dei furti d'arte, dei tesori archeologici, hai dato un grande rilievo a una eccellenza italiana, qual è? Sì, beh, è un racconto che sto facendo sui, diciamo, sui furti, oppure anche il mercato internazionale nero, illegale, dei pezzi, dei tesori d'antichità, soprattutto nel caso italiano anche dei pezzi di archeologia. Lo spunto d'attualità è dato dal contrabbando di antichità che adesso, come dire, va alla grande nel Medio Oriente e fornisce anche uno dei fonti di finanziamento per l'ISIS. Ma io non parlo di questo perché non ne ho la competenza, invece ho fatto tutto un grande studio su quello che è successo e succede in Italia, tra l'altro ottimamente documentato da un giornalista italiano, Fabio Isman, questa storia qua. In ogni caso, lì dove volevo arrivare, che facendo questa ricerca, parlando con archeologi, seguendo le tracce di, come vengono descritti, di tracce di alcuni tesori spariti, poi ritornati in Italia, ho scoperto appunto questa vera eccellenza italiana che è il nucleo tutela patrimonio culturale istituito nel 95 e il lavoro che fa viene riconosciuto come una delle migliori strutture investigative in Europa in questo campo. Nucleo tutela patrimonio culturale, magari sono all'ascolto e saranno anche contenti di questo riconoscimento che, pensate un po', viene da una giornalista straniera, da una giornalista finlandese. È un nostro fiore all'occhiello sia in termini investigativi e di risultati raggiunti. E la cosa interessante è che in questo ambito ci si serve anche dei pentiti. È vero o no che ci sono anche dei pentiti tra i trafugatori di opere d'arte? Dopo, quando sono stati interrogati alcuni, per esempio, questo risale già alcuni anni fa, alcuni tombaroli hanno poi raccontato le loro vicende, certo, come no. È bellissimo scoprire anche questo aspetto. Dal punto di vista degli italiani più noti in Finlandia, diciamo così, a parte Berlusconi, cosa che tu registri, rimane sempre in testa alla classifica quando si fa un brainstorming sull'abbinamento tra Italia e un nome. Quali sono gli altri italiani, anche fuori dall'ambito, diciamo, politico, conosciuti dai finlandesi? Conosciuti dai finlandesi? Sì. Ma io credo che tutto il mondo, per esempio, della musica contemporanea, musica dei giovani, credo che sia molto conosciuto e molto seguito. i vari, io adesso non sono più tanto giovane, per cui io questo mercato lo conosco meno, ma sono certo che sono molto molto seguiti. Ci sono poi i registi? Registi? Registi italiani conosciuti? Oppure registi finlandesi conosciuti in Italia? No, cosa che... italiani conosciuti. Ma sicuramente anche tutto il cinema italiano viene seguito molto. Nella vecchia guardia può essere curioso, forse tutti non lo sanno, proprio nella vecchia guardia, per esempio, un uomo, un artista come Dario Fo, è da sempre conosciutissima e amatissima non solo in Finlandia e in tutta la Scandinavia, ma questo riguarda la vecchia guardia. Ma come si traduce il dialetto, per esempio, che utilizza non moltissimo? Non si può tradurre il dialetto. Quando si traducono dei testi che sono prettamente fatti, nel caso poi di Dario Fo anche di un dialetto inventato. È ancora più difficile da rendere per un povero traduttore. È un grammelò inventato da Dario Fo, ovviamente lì in quei casi si torna alla lingua, non si possono inventare dei dialetti. Comunque grave problema, questo è, non ha impedito la presentazione di, io credo tutti i testi Dario sono stati presentati. Pirco, velocemente, visto che hai 40 anni di esperienza in Italia, non solo come giornalista naturalmente, ma anche come persona, come madre, e hai osservato diversi aspetti, cos'è che non sopporti più dei finlandesi quando ci vai, proprio perché ormai hai acquisito un'italianità di fatto? Cioè, che cosa non sopporto nei finlandesi? Sì. Sono molto rigidi. Dopo aver vissuto in Italia, patria della flessibilità per antonomasia, li trovi un pochino rigidi? Sì, allora mancano di flessibilità e di una certa leggerezza nella vita. Ce n'è troppa forse in Italia? Certamente, adesso se vuoi te ne cito anche degli esempi. Quando viene portato all'estremo, come in questo paese qua, è una... dire causa dei problemi che conosciamo tutti, ma quando manca del tutto è un po' come se mancasse il sale nella vita. E cos'è che non sopporti invece degli italiani ancora oggi, quando ormai sei abituata non solo alla lingua e alle usanze? Ma soprattutto mi è venuto in mente anche adesso commentando questa faccenda qua, Gassman ha ragione mille volte, Alessandro Gassman, io veramente non sopporto il costante lamentarsi di tutto e la costante ricerca del capro espiatorio. Il puntare il dito costante, lamentarsi di tutto è colpa sempre di qualcun altro. Guarda, è colpa del sindaco, dei politici, del fatto, di Garibaldi, di chiunque, ma non è mai colpa del cittadino, anche di quello che si lamenta, no? Anche se è lui che parcheggia in seconda fila, lascia in giro i rifiuti, se ne frega della pulizia dell'ambiente, è lui... Però lui non è mai colpevole, è sempre qualcun altro. Vedi, io non credo che in 45 anni credo di non aver mai conosciuto un italiano che dica è colpa mia. E devi sapere, se ce n'è qualcuno all'ascolto, visto che stiamo trasmettendo su tutto il territorio nazionale, esatto. Allora, invece, lascerò il tuo numero di telefono, Pirco, nel caso ne scoviamo uno. Sì, vedi, questo è importante. Nella mia cultura, invece, chi ammette i propri errori viene guardato con più considerazione. Fantastico. Invece qua proprio no, è colpa del sindaco. Ecco, per esempio. È una grande lezione di educazione civica che ci hai fatto, Pirco. Grazie a Pirco Peltonen, giornalista e scrittrice finlandese, a cui vogliamo fare un omaggio. Ti facciamo un omaggio musicale, così che tu ti possa sentire quasi trasferita a Helsinki. Anzi, la band che ti proponiamo, ce l'hai fatta scoprire tu, ce lo puoi dire in finlandese con una pronuncia che non faccia inorridire tipo la mia? Hello Helsinki. Pulp Fiction è il brano, tutto per te, Pirco. Sì, grazie. Grazie. Grazie, buona giornata. Buona giornata, naturalmente, a Pirco Peltonen. Laitoin biisin soimaan, sä ilmestyit sanoen hymy mulle suo. Chuck Berry alkoi tunnelmoimaan, mä sanoin sulle moi vaan ja vabbè, c'è Peter Bescapé in regia che è veramente entusiasta per questa musica finlandese, si è scaricato tutto in tempo reale. Per la traduzione ci rivolgeremo a Pilco e noi torneremo con i nostri amici che ci guardano da fuori e quante cose ci insegnano domani alle 8:15. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Non abbiamo ancora dato il numero di SMS 349-238-6666, eppure ne sono arrivati centinaia su questa questione del poter pulire o meno la città. C'è anche chi è un po' acidino, eh? Abbiamo sempre bisogno di attori, di sportivi, di personaggi famosi che ci ricordano i nostri doveri civici. Questo è un Twitter invece. Ma tornando agli SMS, bisogna sottolineare la grande adesione alla possibilità di partecipare e l'amarezza per il fatto che, come ci sottolineano da Pinerolo, questo è Max, i comuni abbiano fallito nei loro compiti. È chiaro, si intreccia naturalmente la tematica della partecipazione al scendere in strada con le scope con altre questioni di gestione della città che in questi mesi ci hanno tenuto incollato alla televisione, ai giornali, da Mafia Capitale a questioni di corruzione che non hanno risparmiato quasi nessuno. E dobbiamo comunque fare la nostra parte. Però c'è Luigi da Modena, ci ricorda: attenzione, perché sono i turisti, compresi gli americani, che in Italia sporcano più di tutti. Altri invocano le multe, multe salate come in altre città europee. E non bisogna entrare nel vivo della questione della pulizia, perché le colpe, come ci ricordava sempre anche la nostra amica e corrispondente finlandese, sono sempre delle istituzioni, sono sempre degli altri. Qualcuno naturalmente declina il suo messaggio anche su questo tono. Li leggeremo tutti, vi daremo voce dopo le 9 sul tema delle città globali, delle città sicure, delle città partecipate. Potrete anche telefonarci all'800 24 00 24. Ora però, come annunciato, vogliamo parlare di un'indagine della più imponente operazione contro il gambling online, cioè il gioco d'azzardo e le scommesse illegali sul web, che è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. E per questo ringrazio per il suo tempo, perché naturalmente ha ben altro e più importante da fare, il procuratore, il capo della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Caffiero De Rao. Buongiorno signor giudice, grazie per il suo tempo. Buongiorno e grazie a lei. E noi vorremmo partire proprio da questa operazione, perché immaginare che la nostra agenzia di scommesse sia a Reggio Calabria, e perché è importante dire dov'è questa agenzia di scommesse, perché Reggio Calabria, pensate, è la seconda città dopo la provincia di Napoli per giocate in nero. Perché dico in nero? Perché ci sono anche le giocate legali, naturalmente, per quelle per cui si paga l'erario, si pagano le tasse, insomma, con ritenuta alla fonte. Al di là del problema della dipendenza da gioco, e tra poco affronteremo anche quello, provato da studi internazionali, un giorno entra un uomo nella vostra agenzia di scommesse e poi altri, e fanno intimidazioni, fanno capire anche a voi, che avete la vostra agenzia di scommessa, appunto, che è meglio che facciate quello che dicono loro. Allora, abbiamo un po' semplificato, signor giudice, ma cos'è successo e come è nata questa indagine? L'indagine è nata, appunto, come diceva, e semplificando molto correttamente, un paio d'anni fa, quando nell'ambito di un'agenzia si sono presentati alcuni esponenti di una cosca e hanno detto al titolare che doveva accettare anche scommesse dirette da banco, quindi non solo online, come l'agenzia avrebbe dovuto fare. Il titolare dell'agenzia ha presentato denuncia. E l'ha presentata subito, scusi se la interrompo, cioè ha subito per un po' queste intimidazioni, si è piegato o immediatamente corso? Beh, non proprio immediatamente, c'è stata tutta un'attività di condizionamento, di intimidazione, ma bisogna partire da un punto: a Reggio Calabria l'Andrangheta controlla sostanzialmente tutto, anche imbiancare una parete costringe a rivolgersi a colui che deve in quel quartiere per autorizzazione della 'ndrangheta lavorare in modo quasi esclusivo, nel senso che solo coloro che sono autorizzati possono farlo. Quindi diciamo che già il condizionamento ambientale è altissimo, quindi chi viene avvicinato e viene intimato a tenere un determinato comportamento, è chiaro che sa da subito che quel comportamento lo deve adeguare all'ordine. Non c'è alternativa, o si rivolge allo Stato o deve soggiacere, non ha possibilità di sottrarsi. Lei ha fatto bene a sottolinearlo, e lo ricordo chi si fosse messo in onda da poco, insomma, noi stiamo parlando con Federico Caffiero De Rao, cioè il procuratore di Reggio Calabria che ha gestito questa indagine, poi racconteremo anche naturalmente degli esiti, ma è importante partire dal contesto, è determinante, perché immaginate le notti in bianco che deve aver passato quel proprietario di locale di scommesse, chiedendosi: denuncio o non denuncio? Metto a repentaglio non solo la mia vita ma anche quella dei miei. Cioè, è chiaro che non possiamo occuparci ora dei suoi tormenti, ma è importante capire anche quanto alla fine poi una persona, una decisione individuale possa segnare e portare a un cambiamento di rotta, una differenza anche in un ambiente difficilissimo come quello che ci sta illustrando il dottor De Rao, che grazie a questa denuncia si è arrivati, ricordiamolo, a 41 arresti di 'ndrangheta e un sequestro che a quanto ammonta, dottor De Rao? A circa 2 miliardi di euro, tenuto conto che sono stati sequestrati circa 1500 punti di trasmissione dati, quindi delle agenzie, e numerosi beni immobili, oltre che società, soprattutto nel territorio nazionale. Peraltro è stata fatta una richiesta interrogatoria. Ed è molto importante cercare di capire come poi la 'ndrangheta tragga dei grandi benefici da questo tipo di sistema. Lei ci raccontava, se ce lo può spiegare, perché ha il dono di rendere accessibile anche queste operazioni tecnicamente molto complicate. Cercavano di obbligare queste agenzie di scommesse, poi ci sono anche riuscite ad accettare dei soldi in contanti, perché è vietato dalla legge, giusto? Le agenzie che sono autorizzate a ricevere denaro in contante entrano in un altro circuito, che è il circuito di coloro che sono autorizzati per concessione ad accettare scommesse in contanti, ma sono poi sottoposti a tutta una normativa diversa, una normativa che prevede innanzitutto la imposizione di tasse, imposte, oltre che appunto una tassa per la scommessa. C'è un regime fiscale alto e finalizzato a accertare chi è il giocatore, qual è il punto scommesse, quant'è la cifra che viene scommessa, e quindi il tutto poi viene sottoposto ad imposte dirette per quanto riguarda l'agenzia, oltre che a una tassa per quanto riguarda le scommesse. In questo caso invece è ben diverso, stiamo parlando di un'altra modalità completamente differente. Parliamo infatti del circuito online, cioè un circuito che avviene tutto attraverso una trasmissione telematica di dati e di scommesse, e laddove il soggetto che accetta la scommessa ha costituito la società all'estero ed ha posto all'estero i server attraverso i quali funzionano le scommesse o anche il poker o anche qualunque altra forma di gioco, è chiaro che il tutto viene trasferito all'estero. Ma perché ciò possa avvenire, è chiaro che vanno rispettate determinate regole. Innanzitutto deve essere identificato il giocatore, poi deve essere aperto un conto online, e il conto deve essere aperto con le garanzie e con il rispetto delle forme che sono previste per il gioco online, e quindi attraverso un sistema che viene monitorato esattamente e correttamente. Cosa è avvenuto invece nell'ambito della indagine che è stata condotta dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria? Che dei punti trasmissione dati, che cioè si sarebbero dovuti limitare a fare da consulenti al giocatore, il quale avrebbe dovuto aprire un conto, essere identificato, anziché procedere con le forme previste per il gioco online, procedevano con l'accettazione diretta della scommessa, con l'utilizzo del conto fido, che il conto che lega l'agenzia sul territorio rispetto alla società estera che ha i server all'estero, ed è un conto che serve solo da garanzia per l'agenzia nel rapporto fra agenzia e società estera, mentre questo veniva utilizzato anche per le scommesse del singolo giocatore, che non veniva identificato, pagava in contanti o con assegni. Chiaro, è chiaro, e quindi contribuiva con questo sistema al riciclaggio di denaro evidentemente sporco, quindi serviva all'organizzazione, adesso sto semplificando, per bypassare norme e controlli della legislazione nazionale, giusto? Certo, non, sottrarsi quindi alle imposte dirette, per sottrarsi alla tassa sul gioco, cioè sottrarsi a tutti quei pesi che gravano il gioco che viene esercitato in Italia, ma soprattutto è una forma attraverso la quale il denaro va all'estero senza che vi sia una giustificazione, quindi vi sono queste forme attraverso le quali, cioè, si copre tutta una fetta del denaro speso che può coprire qualunque posta. Noi da Reggio teniamo conto che puntualmente ogni anno viene sequestrata almeno 1,5 tonnellate di cocaina, e quindi se ogni anno questo è il quantitativo di cocaina che viene sequestrato, pensiamo che almeno 10 tonnellate passano, altrimenti diventerebbe... Chiaro, se no sareste infallibili, cioè siete bravissimi, quindi, però... Quindi troverebbero altro porto. Invece, chiaro, su una tonnellata almeno 10 riescono a transitare, e siamo ancora ottimisti. Ecco, sì, siamo ancora ottimisti. Allora, se questo avviene, dov'è il denaro? Com'è possibile che transazioni di milioni e milioni di euro non vengono rilevate mai? Quali sono i sistemi attraverso i quali passa il denaro? Ecco, allora noi andiamo alla ricerca appunto dei canali attraverso i quali viene pagata la cocaina, attraverso i quali vengono pagati gli affari illegali. Ecco, lei ha sottolineato un punto importante, le spiego perché, giudice. Perché nonostante ci si agiti in questi giorni, si perda il sonno per questioni legate, tra virgolette, alla sicurezza, e ne parliamo anche noi giornalisti, complici, come dire, di questo allarmismo forse ingiustificato vedendo le statistiche, in realtà il vero allarme italiano è questo: siamo invasi da tutta l'economia, la politica, i sistemi sono di conseguenza contaminati e sviati dai soldi di questi proventi della cocaina, e racconteremo bene in una puntata in che modo questo sta incidendo non solo sull'economia nazionale ma internazionale. Eppure, quando c'è stato questo sequestro da 2 miliardi, come titola anche il Sole 24 Ore a pagina 20, L'Avvenire che ne ha fatto l'apertura, è passato un po' sotto silenzio. È come se la gente, se le persone, quando non vedono il sangue, non pensano ai danni che la mafia può fare. Ormai reticoli quasi invisibili. Se non si assiste a una sparatoria, se non si assiste a qualcosa di cruento, si pensa quasi che il fenomeno sia in sordina. Invece la mafia continua a agire. Lei ha illustrato molto bene come e in che modo si può agire sul problema del riciclaggio, come aggirare, come bypassare le norme e i controlli grazie a questo meccanismo. Le chiedo, dottor Federico Cafiero De Rao, da quanti anni o da quanti mesi stavate seguendo questa pista? Quanto avete impiegato ad arrivare a questo sequestro da 2 miliardi? Beh, poco meno di 2 anni, però devo dirle che proprio il discorso che lei ha fatto sull'economia è un discorso, se mi consente di andare su questo argomento che mi sembra importantissimo, che andrebbe sottolineato, perché a volte si guarda l'illegalità e quindi i proventi dell'illegalità come un discorso che bisognerebbe bypassare per evitare che si pensi ad un'economia inquinata, quasi che l'inquinamento e l'economia sia un qualcosa di negativo per il territorio e lo Stato in cui ciò avviene. Ma questa non è una caratteristica solo dello Stato italiano, questo avviene anche all'estero, in Germania, in Svizzera, in Inghilterra, laddove quando si individuano dranghetisti che reinvestono il denaro in quei territori, hanno una difficoltà a intervenire, perché per loro l'economia va sempre rispettata, anche quando è incerta la fonte, quasi che rientri in un circuito che produce denaro, quasi che il denaro, qualunque sia la provenienza, debba essere comunque rispettato perché ricchezza e benessere, senza certo. comprendere che quel denaro invece inquina e impedisce alle persone per bene, a coloro che sono imprenditori onesti, di andare avanti, perché quello è denaro sporco, è denaro che non è faticato, non rispetta le regole di mercato e quindi torniamo, travolge il mercato. Torniamo ad approfondire questo tema tra pochissimo anche a Riccardo Bonaccina, insieme a Riccardo Bonaccina, che si è unito a noi, lo ricordo, è il direttore del magazine Vita e su questi temi ha scritto in abbondanza. Prima però rimanga con noi anche lei, procuratore. Andiamo sulle strade d'Italia perché vogliamo controllare la viabilità. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Parleremo delle città, sì, è vero, sono arrivati tanti sms sul tema della pulizia, dobbiamo partecipare, dobbiamo fare la nostra parte, ci devono pensare le istituzioni. Devo dire che su questo tema non siete divisi, cioè, una percentuale così a occhio non accurata, me ne scuso, 80-20, l'80% pensa che dobbiamo partecipare anche noi. 349-238-6666 per i vostri sms e 800-24-0024. Ci stiamo soffermando sul delicato intreccio tra 'ndrangheta e riciclaggio del denaro sporco, che avviene in vari modi, però abbiamo preso lo spunto del sequestro da 2 miliardi operato dalla procura di Reggio Calabria proprio per quello che riguarda la raccolta di scommesse in contanti per eludere norme fiscali e controlli, e con noi c'è proprio il giudice che ha coordinato questa operazione, Federico Caffiero De Rao, che sottolineava come ci fossero anche delle mancanze culturali, non solo di norme o di legalità, nel senso che c'è la tendenza, dove gira denaro, quando c'è del denaro che circola, a plaudire, a pensare comunque questo genererà dei profitti e dei benefici per la società, un po' a voltare la testa dall'altra parte. Riccardo Bonaccina, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Direttore della rivista Vita, ha sentito che operazione senza dubbio... Ammirabile, è interessante sentire anche il dietro le quinte di queste cose che poi arrivano quando sono concluse sui giornali, ma richiedono notti di appostamenti, intrecci, lettura dati, caffè, occhiaie, ne abbiamo viste tante. E secondo lei è solo una goccia nell'oceano? Lei che si è occupato per tanto tempo di gioco d'azzardo, di gambling, di ludopatia, è una goccia nell'oceano questa operazione, o è veramente una botta importante agli interessi della malavita? No, secondo me è una grande operazione, non è la prima, ce n'erano state altre, però questa, come diceva il dottor Caffiero De Rao, lui ha detto: noi stavamo studiando il sistema attraverso cui passa il denaro sporco, ecco. Secondo me la cosa importante che ha messo in luce, diciamo, anche diciamo, quantitativamente, questa operazione, appunto, che ha sequestrato, che ha diciamo, messo nel mirino 45 società operanti nel settore dei giochi, 1500 punti commerciali, 82 siti nazionali e internazionali di gambling online, è quella di far capire che il gioco lecito, cioè la parte di gioco legale, che ha una diffusione così oramai impressionante, no? Dalle 380.000 macchinette sul territorio alle 4.600 sale VLT, bisogna stare molto attenti, perché è è un settore, questo del gioco legale, attraverso cui, cioè, che può essere una grande lavatrice di denaro criminale. Quindi questa operazione, secondo me, mette bene in luce questo rischio, che è un rischio enorme. E tra l'altro lei ha detto Bonaccina è la prima, ce ne sono state altre, sono state trovate, è vero, sale bingo, giochi d'azzardo in mano ai casalesi, cioè l'andrangheta e la mafia in generale prediligono questa forma di riciclaggio del denaro sporco. Lei si è occupato anche tanto delle ricadute sociali di questa abitudine facile al gioco, è diffusa in tutto il mondo, va detto, non è che l'Italia faccia eccezione, però in Italia è particolarmente diffusa. Addirittura, cosa dicono i dati riguardo a come si piazza il nostro paese? I dati dicono che, diciamo, il giro d'affari complessivo del gioco lecito sono 84 miliardi e 400 milioni. Pensate che secondo l'Economist il giro d'affari mondiale del gioco è 390 miliardi, quindi stiamo parlando di 21,6% del volume d'affari mondiali, diciamo, a sede in Italia. Ecco, quindi è una quota rilevantissima, un paese, diciamo, l'Italia all'avanguardia da questo punto di vista, nel senso che l'offerta di gioco in Italia ha debordato da ogni punto di vista, cioè sia dal punto di vista dei territori, appunto quando diciamo 380.000 macchinette in 120.000 esercizi commerciali, bar, tabaccherie, autogrill, addirittura erboristerie, fino a tutto erboristerie. Questa mia nuova, scusi, questa non la conoscevo. Si sta diffondendo anche una sensibilità alle ricadute sociali del gioco. Molto, per esempio, molto, ci sono moltissime iniziative, ci sono molte leggi che tentano soprattutto di tutelare le fasce deboli, perché chi riesce a fare la puntatina al bingo, a giocare una volta ogni tanto e poi a ritrarsi, come dire, intatto, naturalmente non costituisce un problema. C'è una piccola percentuale che però ha dal punto di vista sociale dei costi altissimi, è stata calcolata circa nel 2-3% di chi gioca, che invece arriva alla rovina totale, trascinando con sé nel baratro naturalmente famiglia e quant'altro. Sono partiti progetti di sensibilizzazione, quali sono i modelli a cui guardare per sensibilizzare in questo senso? Bonaccina, lei che segue il fenomeno, le leggi, le regioni, le realtà? Sì, sono, pensate che in Italia oramai sono, diciamo, i poteri locali sono quelli che si sono resi conto per primo di questo guaio, perché diciamo è un'industria questa che non produce valore ma lo consuma, no? Perché quando pensiamo che la spesa media pro capite in Italia per il gioco pro capite vuol dire dal neonato al vecchietto non più autosufficiente 1.431 euro buttati nel gioco, parliamo di una cifra importante che se fosse, diciamo, usata per consumi come il mangiare bene, il vestirsi o il viaggiare, pensate a che volano economico sarebbe. Ecco, dicevo, quindi le regioni sono state quelle in prima fila, sono 16 oggi le regioni in Italia che hanno una legge di contrasto alla ludopatia, sono molti comuni che hanno fatto regolamenti comunali che, diciamo, mirano alla distanza dei luoghi da gioco, dei luoghi sensibili tipo scuole, centri di aggregazione, eccetera. E poi, diciamo, dal punto di vista sociale, oramai voglio dire, sono tantissime, sono centinaia le scuole che hanno progetti di sensibilizzazione a questo tema, perché per esempio i ragazzi spesso, diciamo, sono buoni frequentatori dei centri scommesse e dei giochi online, quindi diciamo anche da questo punto di vista si sta facendo molto. Si sta facendo molto e ci sono anche delle percentuali che dicono quali sono le possibilità di vincita, per esempio per fare 6 al Super Enalotto, e sono inquietanti. Sono state distribuite in provincia di Novara, vi daremo queste cifre proprio con la probabilità, la matematica, e dopo le 9, dopo il notiziario che ci porterà alla seconda parte di Spunti di Vista. Intanto voglio chiedere a Cafiero De Rao brevemente, se mi aiuta in 30 secondi, giudice, a dare una fotografia del fenomeno su Reggio Calabria. Reggio Calabria è una città nella quale il gioco è particolarmente diffuso, questo infatti è un altro elemento che ci ha sorpreso, come in una situazione nella quale l'economia non sia certamente particolarmente florida, il gioco invece raggiunga delle punte che è fra le prime d'Italia, e quindi già questo ci fa pensare che evidentemente c'è una patologia. 10% del PIL, come ha segnalato lei. Torneremo a parlarne tra poco, ora però diamo lo spazio alle notizie, al GR Spunti di Vista, torna subito dopo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Deborah Rossani. Abbiamo alle spalle una settimana in cui gli investitori hanno avuto a quanto pare maggiore serenità. La questione greca, che è sempre naturalmente molto seria, ha fatto però passi avanti, considerati al momento positivi. Sono state riaperte le banche, il Parlamento ha approvato la seconda tranche di riforme necessarie ad ottenere da Bruxelles il via libera definitivo al terzo piano di salvataggio di Atene. Un altro tema che sta catalizzando l'attenzione generale degli operatori, e in questo caso ha una spiegazione cinese, è il crollo del prezzo dell'oro e la discesa abbastanza significativa anche di quello del petrolio e di altre materie prime. Ma soprattutto l'oro nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé. La Cina ha reso noto di avere riserve auree nettamente inferiori a quanto si pensava, e questo ha rappresentato un motivo sufficiente per scatenare una tempesta di vendite e un calo verticale che ha portato le quotazioni del metallo giallo ai minimi da 5 anni a questa parte. Comunque la Cina merita ancora un'ampia attenzione generale, perché in quest'area la contrazione economica continua. Venerdì, per esempio, questo è stato indicato dall'indice manifatturiero, che è stato il peggiore degli ultimi 15 mesi. Ovviamente anche la prospettiva di un aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Americana continua a condizionare i mercati. In particolar modo questa prospettiva rafforza il dollaro, che a sua volta poi condiziona il prezzo delle commodities e delle materie prime, in particolar modo il petrolio. Il petrolio americano è sceso a $49 al barile. Sui tassi ne sapremo di più probabilmente nella riunione della Federal Reserve di metà settimana, di mercoledì 29 luglio. Come sempre, prima di concludere, un'occhiata agli altri temi da monitorare questa settimana. Arriva l'inflazione europea, arriva anche quella italiana, arriva il PIL americano del secondo trimestre. Sotto i riflettori rimangono le società che pubblicano i conti trimestrali, peraltro la settimana scorsa è stata molto apprezzata quella di Amazon. Le più importanti che arrivano nei prossimi giorni a livello internazionale sono Ford, Facebook, Samsung, Nokia, Banco Santander e Deutsche Bank. In Italia invece occhi su Enel e Luxottica. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. 27 luglio, se vi siete svegliati da poco, risintonizzatevi con i numeri. E sono trascorsi 8 minuti dopo le 9. Perché parliamo di numeri? Perché tra poco vi diremo che percentuale avete in realtà di vincere, di fare 6 al Super Enalotto. E sappiamo anche che l'Italia è ai primi posti nel mondo per il gioco d'azzardo patologico, con un costo sociale annuo di circa 8 miliardi di euro. Oggi noi non entreremo nel merito di proibire o regolare, perché questo naturalmente è stato l'oggetto di trasmissioni precedenti, magari ci torneremo in futuro, ma abbiamo voluto invece sottolineare quelli che sono gli intrecci tra 'ndrangheta e web scommesse, mafie e scommesse sul web, circuiti illegali per eludere norme fiscali e controlli, grazie a un'operazione, quella della DDA di Reggio Calabria sul gioco online, di cui ha scritto diffusamente Galullo sul Sole 24 Ore, e pochi altri giornali. Perché? Perché questa disattenzione, questa scarsa sensibilità al fatto che questi soldi, come ci ha spiegato il procuratore che ha seguito l'indagine, poi inquinano e determinano le dinamiche dell'economia italiana in maniera molto pesante? E vogliamo concludere questo tema facendo un'altra riflessione. C'è qualcuno che ha definito le tasse sul gioco delle tasse immorali, e un gruppo di ricercatori ha creato un movimento, si chiama No Slot, anatomia dell'azzardo di massa, e a capo di questo movimento c'è Marco Dotti, che ha scritto questo libro col titolo omonimo. E abbiamo sentito lui al telefono per capire di cosa si tratta e cosa intendono quando addirittura parlano di immoralità. Diciamo che da un circa 20 anni lo Stato italiano in particolare ha capito che può trarre risorse finanziarie dalla disciplina del gioco d'azzardo. Queste risorse sono sempre meno, perché sono arrivate ad essere comunque cifre importanti. Per l'ultimo anno è 8,4 miliardi di euro diciamo, sono confluiti nell'erario, ma comincia a esserci una certa critica nei confronti di questa tassa immorale, quella che appunto Giusti, in una sua satira poi ripresa da Cavour, diceva essere la tassa degli sciocchi. Non tutti sono sciocchi e molte persone hanno alzato l'attenzione. Però è una vecchia storia, è una storia che risale anche all'origine dello Stato moderno. Pensiamo a un paradigma di Casanova, che alcuni dicono essere stato uno degli innovatori delle moderne lotterie e del gioco del lotto. Casanova fu anche consigliere, ad esempio, per poco tempo di Federico II di Prussia, e trovandosi con un problema di cassa, proprio gli mancavano i soldi, era indebitato il suo stato, Federico chiese un consiglio a Casanova, e Casanova gli disse: guardi, non alzi le imposte dirette, perché solleverà rivolte. Stia molto attento ad aumentare l'imposizione indiretta, perché prima o poi qualcuno se ne accorge, e magari non subito, però prima o poi qualche protesta le arriva. Faccia un'altra cosa e vedrà che non le arriveranno né proteste subito, né domani, né mai, cioè inizi con un sistema di lotterie e di lotto, perché il gioco d'azzardo è una imposta né diretta né indiretta, ma volontaria. Ecco, questo è il modello che spiega esattamente, diciamo, il perché gli stati, e in particolare ormai da una ventina d'anni quello italiano, si sono messi, diciamo, a riconfigurare continuamente il loro sistema di entrate, poggiandosi appunto su questa imposizione volontaria che è il gioco d'azzardo legale. Si parlava anche di schiavi ma felici una volta. Vercelli, taglia le tasse per i bar senza slot, è una delle iniziative che si stanno diffondendo in Italia. Nel Novarese, no alle macchinette perché noi vogliamo le famiglie al nostro locale, e distribuiscono per esempio a Oleggio questo volantino messo a punto dal Movimento 5 Stelle del posto, in cui si lascia scegliere quasi, nel senso che si ricordano le statistiche, la possibilità di vincere, di fare sel Super Enalotto è una possibilità su 622.614.630, e ci piacciono i numeri. Lo sai, dice questo volantino, che i numeri del lotto ritardatari non hanno maggiori possibilità di essere estratti, e dunque si punta sulla consapevolezza anche matematica. Riccardo Bonaccina, per concludere questo percorso in un mondo che lei conosce bene, quello del gioco d'azzardo, cos'è che funziona? Cos'è che porterebbe alla responsabilizzazione? Beh, intanto gli esempi che lei ha fatto di aumentare il grado di consapevolezza sono sicuramente interessanti, cioè fare capire al giocatore che se esce il 26 e tu hai puntato sul 27, non è che adesso il prossimo giro esce, diciamo, il 26 perché è il numero vicino. Ecco, è la stessa probabilità, tipo quelli che lei diceva prima. Ecco, aumentare il grado di consapevolezza sicuramente sì, tanto è vero che ci sono delle proposte per cui anche sulle macchinette sarebbe utile mettere diciamo un richiamo alle probabilità di vincita. Altre cose sono sicuramente quello di diminuire l'offerta dell'azzardo, veramente. Quando diciamo che il 21,6% del giro d'affari mondiali sta in Italia, vuol dire che abbiamo esagerato, quindi diciamo togliere un po' di offerta, su cui credo anche, diciamo, i concessionari più seri sono ormai d'accordo, sarebbe sicuramente una cosa interessante. Sì, perché a loro volta i concessionari più seri, come li definisce lei, vengono danneggiati naturalmente, certo, da questi abusi, certo, da questi sistemi che favoriscono l'illegalità diffusa. Riccardo Bonaccina, sono temi che, incidendo così profondamente sull'Italia, sul sociale, sulle nostre strade, chiaramente andrebbero affrontati ancora e molto a lungo. Dobbiamo concludere, ma solo per oggi. Questo è un appuntamento rimandato, la ringraziamo tantissimo ancora. Grazie una volta. Grazie a voi. Riccardo Bonaccina, lo ricordiamo, è il direttore della rivista Vita. Pulsa come una città, questa base che ci sta proponendo il nostro regista Peter Bescapé. Sylvie Boccaletti fa parte del team di Spunti di Vista e pensate, è una ricercatrice DJ, lavora con noi e ci sceglie, fa anche queste selezioni musicali. La ringraziamo moltissimo per questo contributo. Ne approfittiamo per cambiare pagina quando sono le 9:16, perché vogliamo parlare non tanto e non solo di Gasman o di Roma, ma di quello che ci sta succedendo intorno nel nostro territorio, il territorio urbano, perché il 60% della popolazione mondiale, e questo ce lo segnala l'Economist, vive in città, vive in metropoli. Saranno brutte, sporche e cattive, ma ancora per ora reggono sul piano dell'attrattiva, dell'attrazione. Possiamo migliorarle noi? Sembra suggerire anche quanto lanciato da Gasman. Se prendiamo anche semplicemente una ramazza, se facciamo la nostra parte, se ci mettiamo a pulire, ne beneficia la città? O invece, come sottolinea qualcun altro, daremo un alibi ancora maggiore alle istituzioni per non fare quello che dovrebbero fare? Vogliamo sentire anche le vostre voci. Il numero da chiamare 800 24 00 24, anche facile da ricordare. Andiamo a Napoli, buongiorno. Pronto? Se il nostro ascoltatore napoletano verrà ripreso tra poco. Abbiamo invece Berlino. Tamara, buongiorno. Buongiorno Irene. Da Napoli a Berlino, buongiorno. Tamara è una giovanissima, come potremmo definirla, un cervello in fuga, non so, sono tante. Comunque ha un'esperienza interessante, al di là della sua biografia. Lei ha chiesto di avere appunto un profilo basso su quello che fa, anche se in realtà la sua esperienza l'ha portata ad avere la possibilità di confrontare realtà diverse. Innanzitutto, Tamara, tu dici perché sei andata a vivere a Berlino, qual è uno degli elementi che ha influito sulla tua scelta di fuga? Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto il motivo è stato un'indipendenza economica, nel senso, per farla molto breve, dopo l'università mi sono trovata a Berlino intorno al 2005 per un corso di tedesco e vengo a conoscenza dei bassi costi degli affitti, quindi decido di rimanerci e prolungare la mia permanenza, perché rispetto agli affitti a Milano mi rendevo conto che non potevo avere un'indipendenza abitativa. E trovo facilmente lavoro, ma è stata forse una fortuna, non lo so. Vabbè, questo fa parte della tua modestia. Adesso, al di là della fortuna, abilità, meritocrazia o meno, l'affitto è stato l'affitto, uno degli elementi che ha inciso sulla scelta di Tamara. È importante. Perché? Perché in questi giorni, in questi mesi, addirittura, cosa succede? A Berlino è stato deciso... Sì. Un tetto massimo, non per gli affitti, per i rialzi degli affitti, anche esatto, già esistenti, già in corso. Hollande, per le banlieue e per evitare la fuga continua delle famiglie dal centro, ha preso in giugno un'iniziativa simile. Partendo dagli affitti e allo stop al caro affitti, oltre un certo tetto, abbiamo sentito, in questi capoluoghi europei non sarà possibile salire, in realtà si discute di quella che è la grande differenza tra centri urbani, che a volte sono tirati a lucido, bellissimi, pieni di opere di archistar, ma praticamente inaccessibili alla maggior parte della popolazione, e periferie, che invece vengono lasciate a se stesse, nel degrado, con situazioni inaccettabili anche dal punto di vista dell'esistenza e della vita quotidiana. Questo ha a che fare con la sicurezza, si intreccia in qualche modo tutto ciò anche con la sensazione di sicurezza percepita dei cittadini italiani. E oggi, proprio perché ci piacciono i numeri in questa trasmissione, vi proporremo anche un algoritmo che la può misurare, questa sicurezza, perché in Italia si studia di tutto, mentre noi siamo qui c'è un'attività di cervelli, devo dire, veramente eccellente. Prima di continuare e con Tamara e con i nostri cervelli che tra poco vi presenteremo, ci interessano le vostre voci. 800 24 00 24. Avevo fatto una premessa, che era una promessa, forse riesco a mantenerla. Posso andare a Napoli, Peter? Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Pronto Giuseppe, ci dica. No, io di questa proposta di Cartman, che sì, amo molto al cinema, io posso anche essere d'accordo, ma fino ad un certo punto, perché nella mia città, che è Napoli, sì, io ho incominciato ad adottare i giardini, poi tutte le strade alberate, poi adesso sono passata alle piazze e alle strade. Adesso se la mattina mi devo mettere un bel camice e devo andare anche a spazzare le strade, io mi domando, scusate, ma io non ho capito, ma le autorità comunali che cosa devono fare? Qual è il loro compito istituzionale? Per questo io pago delle tasse e non vedo, perché poi dopo mi vado a controllare l'amico Casman a Roma che ogni mattina va a spazzare la sua strada, Non è che poi diventa solamente un modo tanto per fare qualche cosa. Giuseppe, ma lei l'ha adottato lei il giardinetto lì a Napoli? Scusi, no, il gioco di parole. Scusi un attimo. No. Ho capito. Io ho adottato, sotto casa mia c'è un'adozione dei giardinetti. E lei l'ha adottato? Per poter tenere i giardinetti all'uscita del palazzo in ordine. Cioè voi versate un obolo, diciamo così, esatto, come cittadini? Esatto, un privato che ci governa i giardinetti. Giardinetti che sono pubblici, non sono privati. Una specie di badante del giardinetto. Io le voglio dire solo questo. Sì, io dica. A questo punto, a Napoli, se io vado anche a spazzare le strade, a questo punto mi conviene adottare il sindaco direttamente. Perché così a questo punto farò del volontarismo, ma quantomeno cercherò di organizzare qualcuno che deve invece organizzare la città. Grazie. Giuseppe, grazie, è stato molto, molto chiaro. Scusi che lasciamo spazio un po' a tutti. Avete sentito una voce critica su questa proposta di Casman. La proposta qual è? Insomma, diamoci da fare in prima persona, ripuliamo. Casman parla di Roma e naturalmente ognuno ha la realtà sotto casa, ma questo può essere allargato a qualunque situazione urbana. Vediamo a Pavia. Pronto, Anna, buongiorno. Buongiorno. Sì, lei è d'accordo con Casman o con il nostro amico Giuseppe? Sono perfettamente d'accordo con Casman, gli faccio i complimenti perché potrebbe tranquillamente fregarsene lui, però sono convinta che se tutti facciamo la nostra parte, io penso che la città sarebbe un po' più pulita. Io mi ricordo quando ero piccola, adesso sono quasi vicino alla sessantina, c'erano le botti d'acqua che venivano versate sulla strada per ripulirla. Forse respireremo meno gas, meno polvere. Sì, ma Giuseppe dice, no? Ha sentito l'altro ascoltatore. No, lui dice, sentito. Noi abbiamo pagato... Ah, non l'ha sentito, io lo riassumo, diciamo. Noi già cittadini paghiamo, adesso non ricordo se una persona, e non ho capito in che forma viene, ma abbiamo adottato i giardinetti e le aiole a spese nostre. Adesso se ci mettiamo a fare anche questo, allora a cosa servono le nostre tasse? Mi viene da ridere, le nostre tasse sappiamo perfettamente a cosa servono, ma questo è un altro discorso. Io penso che nel nostro piccolo, io per esempio ho un piccolo negozio a Pavia e tutte le mattine scopo e sono una delle poche che ha il contenitore per i mozziconi fuori dal negozio. Il primo me l'hanno rubato perché... perché è pieno di fumatori in crisi. Senta Anna, ma sarebbe disposta, se avesse tempo, se lei non avesse il negozio, andare a dare una ramazzata anche alla via accanto, cioè dove non ha un interesse proprio diretto? Questo mi interessa. Come dice lei, se avessi tempo sì che lo farei. Certo. Ottimo. Che lo farei, perché secondo me è dare il buon esempio, è dando il buon esempio che si tengono delle cose. È inutile essere polemici o fare delle discussioni o inviare gli altri, lei dice. Grazie Anna. Esatto. Anna, buona grazie. Tornata. Da Pavia, la nostra ascoltatrice, ci spostiamo a Roma. Tommaso, buongiorno. Sì, buongiorno. Pronto, dica. Sì. Dicevo semplicemente questo, io vorrei sapere di queste attrici, di questi artisti, di questi attori, di questi cantanti che ben parlano sempre, hanno delle idee fantastiche, delle iniziative proposte da loro che però non hanno mai seguito da parte loro, ovvero mi spiego meglio, loro partono, dicono, lanciano, non partecipano mai, non si vedono mai a parte le foto di rito. Ma poi di questi attori, di queste attrici, di questi artisti, quanti di questi hanno realmente la residenza a Roma e pagano le tasse a Roma? Quindi, scusi, io ritrovo... ma lei adesso facciamo finta che no, l'iniziativa no, facciamo finta che questa iniziativa, questa idea fosse stata lanciata, diciamo, da un romano residente che fa, non lo so, ha un negozio, un commerciale, non fosse stato Casman, l'avrebbe appoggiata? Ma guardi, onestamente no. Ah, quindi non ha nulla a che vedere con il mittente del messaggio, è proprio non le piace il messaggio. Ma l'idea, guardi, io non so quanto pagate voi di tasi, quanto arrivi di tasi ogni anno, a me sono arrivate 300 e passa euro, quindi dopo che pago tutti questi soldi, oltre a tutte le altre tasse, dover prendere la mazza, la scopa, la paletta, lo strofinaccio, lo straccio e impiegare quel poco di tempo libero che mi rimane dovendo andare a lavorare tutti i giorni, altrimenti le tasse non le posso pagare. Non capisco per quale motivo non posso dedicare questo tempo alla mia famiglia, ai miei animali, a pulire quello che fanno i miei animali, visto che vado sempre in giro con la bustina per le iezioni del mio cane, perché non dovrei poter dedicare il mio tempo a quello che più mi piace, perché qualcuno non è in grado, è incapace di tenere pulita la mia città. Perché poi i soldi della rentezza urbana a Roma venivano dati alle cooperative di Buzzi e continuano a darle perché Buzzi lavora ancora raccogliendo l'immondizia a Roma. Ah, senza dubbio a Roma c'è chiaramente un'amarezza diffusa anche per quanto è stato scoperto sulla gestione naturalmente dei servizi. Ora, innanzitutto la ringrazio Tommaso per aver partecipato, aver dato voce a un'amarezza che si sente molto diffusa, soprattutto tra chi ci telefona e ci manda messaggi da Roma. Però alla domanda, la domanda è interessante, perché dovrei andare per strada e sottrarre tempo alla mia famiglia piuttosto che ai miei impegni quando già pago le tasse? Perché una delle risposte a questo perché è piuttosto inattesa. Infatti bisognerebbe andare per strada forse con la ramazza e con quant'altro, sacchetti o quello che serve per raccogliere l'immondizia, non solo per pulire ma anche per rendere la città più sicura, perché diminuirebbero, pensate un po', i furti in abitazione. Sono collegate le due cose, non ci avevate pensato? C'è chi l'ha fatto ed è nostro ospite, lo saluto, lo ringrazio, buongiorno, benvenuto, dottor Marco Dugato. Buongiorno. Lei è responsabile, uno dei ricercatori responsabile di una delle società di indagine e di analisi sulla criminalità in Italia più attente a quello che accade, quindi la ringrazio per il suo tempo e tra poco ci spiegherà questo incrocio. Sì, ne parleremo poi bene nel dettaglio. Sicuramente quello che è interessante è capire come le condizioni della città e quindi anche quali caratteristiche ha possono influire sulla criminalità. Attenzione dunque, scendere in strada sì, ma non solo per pulire. 9:28, questo è il tema della giornata, l'ha lanciato Gasman, l'invito, voi siete d'accordo? Sì, no? 349-238-6666 è l'SMS, 800-24-0024 per le vostre telefonate. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Mamma mia, che amarezza, ci sono proprio persone arrabbiatissime all'idea di poter partecipare, prendere parte. Ecco, la partecipazione in Italia si declina in un modo solo, forse, ronda. In realtà pulire la città viene visto quasi come un invito al degrado, ad abbassarsi, non tutti però, ci sono dei messaggi che dicono di insegnare ai nostri figli innanzitutto non buttare nulla per terra, e lo dice Chiara che ci ha scritto da Milano. Ci sono poi coloro che ricordano che ci diamo da fare parecchio in Italia, perché per esempio al servizio ambulanza il 90% è fatto da volontari, giustissimo. E ci sono quelli che proprio chiedono ed esigono che le tasse vengano utilizzate per i servizi e non si vada a chiedere ai cittadini di fare degli sforzi ulteriori. Noi abbiamo detto partecipare, fare delle cose insieme, stare per strada insieme, anche per raccogliere qualche rifiuto in questo caso, può contribuire a diminuire i furti in abitazione. Ora, detto così, è un po' bizzarro. Vogliamo spiegare meglio? C'è stato un istituto di ricerca che ha svolto un'indagine ben precisa utilizzando degli indicatori urbani, dalla mix sociale che si trova in un quartiere, quindi anche il prezzo degli affitti, quanto accessibile è un quartiere, ad altri elementi, per arrivare a capire quanto sicura può essere una città e quanti furti ci saranno in quella città in quell'anno. Marco Dugato, quali sono gli elementi che avete preso in considerazione come Transcrime? Allora, abbiamo considerato diversi fattori che andavano appunto, come giustamente ricordava lei, da alcuni fattori più legati proprio al mix sociale, quindi che erano più situazioni legate proprio a caratteristiche del contesto, quindi capire qual era la densità abitativa, quindi qual è il numero di persone effettivamente che ci sono. E abbiamo visto che analizzando tre città italiane, Milano, Roma e Bari, molti di questi fattori in realtà avevano un impatto molto forte sulla sicurezza. Voi avete preso in considerazione anche la presenza di polizia, stazioni di polizia, sì, sul territorio, la vicinanza ai campi Rom. Vicinanza ai campi Rom, vicinanza anche ai Comproro, che è uno tra l'altro dei Comproro, esatto, che per esempio nella città di Milano, visto che siamo a Milano, è risultato essere un fattore di rischio, quindi un fattore che in qualche maniera aumenta la pericolosità e il rischio per le abitazioni limitrofe di subire un furto. E come lo spiega? Diciamo che questo in parte è stato giustificato col fatto che il Comproro è visto, specialmente alcuni di questi Comproro che hanno pochi controlli effettivamente all'accesso, in un modo per liberarsi velocemente e facilmente dalla furtiva da parte dei ladri. Quindi riciclaggio facile. Quindi riciclaggio, esatto, riciclaggio e facile. E molti pensano che per esempio la vicinanza di campi Rom o l'assenza di polizia incida sulla sicurezza. Sì, in realtà quello che noi abbiamo visto è appunto va contro questo, questo senso comune, nel senso che in tutte e tre le città, quindi Milano, Roma e Bari che abbiamo analizzato, la vicinanza, essere nelle immediate vicinanze di un campo Rom non influisce sul rischio di subire un furto, così come anche la vicinanza di stazioni di polizia non ha un'influenza specifica. Ovviamente la vicinanza di stazioni di polizia è una proxy non diretta del controllo delle forze dell'ordine, però è comunque un indicatore che è abbastanza interessante. E invece cos'è che ha un effetto benefico, diciamo così, e incide sulla diminuzione della microcriminalità? Innanzitutto va detto che le condizioni cambiano da città a città, quindi andrebbe analizzato poi ciascuna città nel suo specifico. In generale però quello che noi sappiamo anche da altre ricerche che ci vengono dall'estero è che la presenza di un mix funzionale, mix sociale, quindi la compresenza nello stesso quartiere di diverse funzioni, di diverse popolazioni, quindi che vivono la città in momenti della giornata diversi, con orari diversi, favorisce in qualche maniera la sicurezza, perché favorisce il controllo informale in qualche maniera. Allora io torno a Berlino perché lei mi ha dato lo spunto. Tamara, sei con noi? Sì, sono con voi. E proprio da lì nasceva, ora tu ci hai detto, è stato messo un tetto al rincaro, sì, degli affitti, però c'erano, esatto, state delle proteste della popolazione berlinese. Perché? Esatto. Perché? Ma fai riferimento a quando qualche anno fa Brad Pitt e Angelina Jolie comprarono un loft vicino Alexanderplatz nel quartiere di Mitte, uno dei più ambiti soprattutto dagli studenti, ma non solo, e ci sono state delle proteste perché ovviamente la conseguenza è stata rincaro degli affitti nella zona limitrofa, quindi la gente è molto attenta a queste tematiche, non vuole che gli affitti aumentino perché un VIP decide di trasferirsi nella città più cool d'Europa, in sostanza. Ci diceva anche l'ascoltatore romano arrabbiato dalla proposta di Gassman, a un certo punto nel suo passaggio, nella sua telefonata, ci diceva: ma quanti di questi hanno la residenza? Esatto. Questo sta succedendo sempre di più nelle megalopoli, non solo del futuro ma del presente. I centri storici, la popolazione dei centri storici è spinta ad andarsene, non può più reggere il rincaro degli affitti e si ha una sorta di sostituzione della popolazione, che genera diverse cose. Adesso ci siamo soffermati sul mercato immobiliare, una delle cose e degli elementi più evidenti, ma ci diceva Dugato, genera anche un aumento dell'insicurezza in città, perché è pericoloso avere questo tipo di dualità tra centro storico di un certo tipo e periferie più degradate. Aumenta l'indice di pericolosità. Sì, è andato così. Tamara, vai tu che sei berlinese, poi vi andiamo da me. Sì, un dato interessante sulla densità di popolazione a Berlino: è altissima nel quartiere Kreuzer Friedrichshain, tipo 12.400 persone in un chilometro quadrato. mentre nei quartieri periferici è circa di 1400 abitanti per chilometro quadrato e di fatto i quartieri periferici non sono né i più sicuri né i più ambiti. Questa disparità ha comunque delle ripercussioni sulla sicurezza, anche camminare di notte per le strade dei quartieri periferici risulta essere meno sicuro, o comunque questa è la percezione che se ne ha rispetto a quelli centrali e popolatissimi della città di Berlino. Marco Dugato. Sì, sicuramente, come dire, innanzitutto va fatta un po' una distinzione sull'elemento di percezione e l'elemento poi di sicurezza reale, nel senso che ad esempio il famoso mix sociale di cui parlavamo prima, quindi la compresenza di persone che vivono la città in modo diverso, anziani, giovani, a volte può generare delle conflittualità e può generare diciamo anche dei problemi di convivenza in qualche maniera, che possono influire sulla percezione di sicurezza. Nella realtà però, quando poi andiamo a vedere come questo impatta sui reali reati che avvengono, si vede come questa parte di sicurezza di insicurezza percepita in realtà si traduce in poca insicurezza reale, mentre a volte quartieri che vengono considerati più lindi, puliti, sostanzialmente dove tutto è sotto controllo, nella realtà magari hanno dei livelli di pericolosità molto maggiori, proprio perché manca quel controllo informale che a volte è molto spesso importante. Controllo informale che può avvenire dal fatto anche semplicemente che la popolazione vive di più le strade e i quartieri. Sì, assolutamente, nel senso che proprio questa partecipazione, questa semplicemente anche il fatto di essere fuori in orari diversi, o per esempio il fatto che ci siano come per esempio degli anziani che siano a casa durante il giorno mentre la gente lavora, e quindi che il quartiere in qualche maniera sia sempre vivo, non si svuoti mai totalmente, questo ha un impatto sicuramente sulla capacità di risposta e di diminuzione della pericolosità. In una grande nazione qualcuno disse: non chiedere cosa fa la tua nazione per te, ma cosa tu puoi fare per essa. Questo è un messaggio che ci arriva da Firenze, lo firma Marco. I riferimenti alle frasi di Kennedy sono parecchi nei vostri sms, lo ricordo, li potete mandare al 349-238-6666. Io tengo pulito un tratto di strada, addirittura di 3 chilometri, ci segnala qualcuno. E perché lo faccio? Perché mi fa stare bene, fare qualcosa di utile per tutti. E qui non capiamo da che città arrivi, ma noi ora andiamo in un'altra provincia perché stiamo un po' controllando il territorio in lungo e in largo e ci spostiamo nella provincia di Monza, Brianza. Pronto? Pronto? Buongiorno, buongiorno Mariano. Buongiorno. Sì. Mi dica. Io volevo, diciamo, intanto dire che Alessandro Gassman ha avuto una bella sensibilità e si è dato da fare. Non è per il personaggio in sé. Io che ho 61 anni, sono un operaio, lo faccio quasi tutte le domeniche. E noi come gruppo Via della Felicità, che è a livello internazionale, e operiamo proprio non per sostituirci al comune o all'azienda che pulisce, ma è proprio per cercare di sensibilizzare le persone del quartiere a cercare di tener pulito. E alcuni quartieri si sono anche dati da fare nel portare avanti questa iniziativa. E lei non si sente defraudato, come dicono altri ascoltatori, del fatto che paga le tasse, in più deve anche andare a come dire, sostituirsi a ciò che le istituzioni dovrebbero fare. Cioè c'è anche un elemento piacevole, da, mi sembra di capire dal suo tono perché, di voce. Voglio dire, siamo un gruppo di volontari, quindi lo sappiamo bene, cioè c'è chi è sensibile e chi meno. Il nostro compito è quello di cercare di sensibilizzare, c'è chi ha più responsabilità, chi meno, cioè e chi ha più responsabilità deve fare qualcosa per cercare di sensibilizzare, di far arrivare un dare il di... buon esempio. Grazie esatto. Mariano, provincia Monza Brianza. Sentiamo invece come la pensa Mario. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Lei invece dove si trova, Mario? Dove vive? Io abito in provincia di Reggio Emilia. Dica. In un piccolo paesino di montagna. Sì. E ho ristrutturato, vivo in una casa isolata su una strada provinciale. Ho ristrutturato una casa colonica. Io non ho problemi a dire che pulisco mediamente tra scarpate di strada, eccetera, e sono ben contento di farlo. Scusi, ma quanti rifiuti per strada avete in questo paesino? No, non è i rifiuti per strada, ma la maleducazione delle persone è veramente notevolissima. Io tutte le settimane, guardi, io sono un dirigente bancario, tutte le settimane, sabato e la domenica, io parto con la mia ramazza e il mio sacco a raccogliere lattine, carte, scatolotti. E lo fa da solo, cioè non ha chiesto solo, mai riconoscimenti? Assolutamente, io pago le tasse come tutti i cittadini, mi meraviglia quel cittadino romano, quel cittadino napoletano che dicono ci sentiamo defraudati. Nel modo più assoluto, le tasse sono sempre state pagate, sì. Il servizio civico è sempre stato, la mentalità civica deve essere fondamentale da parte del cittadino. Da una parte le istituzioni, ma il cittadino fa una cosa che accompagna l'istituzione, che è diversa, lei dice, cioè devono andare insieme le due forze. Grazie a Mario, ci chiamava da Reggio Emilia. Buon esempio di partecipazione, Marco Dugato. Sì, assolutamente, tra l'altro... Molto più diffusi all'estero, e poi chiederemo a Tamara, cioè è normale all'estero che la comunità comunque, con tutto che paga le tasse, contribuisce a migliorare situazioni anche che partono già da un buon livello. Sì, tra l'altro collegandomi anche agli ultimi interventi, quando si parla di partecipazione, penso che in quest'ottica andasse anche l'intervento, la proposta di Gassman, non è tanto nella sostituirsi allo Stato, quindi sostituirsi a chi deve mantenere l'ordine pubblico da un lato o il decoro pubblico dall'altro, ma è semplicemente aumentare quel livello di coesione sociale, anche di partecipazione, farsi sentire la propria città più sua, che ciascuno cerca di avere, di creare, di sviluppare anche dei legami con il proprio territorio, con le persone anche che ci vivono, e questo, tornando proprio al mio ambito che è un po' quello della sicurezza, ha anche un'incidenza molto forte proprio sulla capacità poi di risposta, nel senso che i territori dove c'è una coesione sociale, quindi dove ci sono dei legami che vanno al di là del rapporto di vicinato, semplicemente sì, conosco il mio vicino, ma dove effettivamente faccio qualcosa insieme al mio vicino, dove ho una attività anche sociale partecipata all'interno del quartiere, sicuramente hanno delle capacità di risposta, la cosiddetta resilienza che si dice, quindi una capacità di rispondere a fenomeni criminali molto più elevata. A Berlino sarebbe un'eresia questa proposta di Gassman, Tamara? Ma guarda, a Berlino i quartieri residenziali sono quelli, diciamo, più puliti fondamentalmente, quelli invece un po' più turistici, abitati quasi per l'81% da europei o comunque non berlinesi, sono abbastanza sporchi, quindi di fatto potrebbe essere una proposta interessante. Ma questo lavorare insieme, questo partecipare la città, tu ci hai raccontato di una protesta in particolare quando Brad Pitt e Angelina Jolie hanno comprato un appartamento, cosa che probabilmente invece in Italia avrebbe fatto stracciare le vesti dall'orgoglio, dalla felicità, certo. Con mare di vipe, lì invece è stata contrastata perché si è detto no, tornatevene da dove venite, noi vogliamo, e ho di fronte le foto di quella protesta, noi vogliamo che la città sia dei residenti, di chi la abita tradizionalmente, da chi la... Ci sono esempi dunque di risoluzione dei problemi che non passino necessariamente dalle istituzioni, ma che passino invece da dei movimenti che nascono spontaneamente sul territorio? Sì, ce ne sono anche molto forti. Dal 2005 c'è questa associazione di abitanti dei quartieri appunto centrali lungo il muro di Berlino, lungo la Spree, il fiume che attraversa la città, si chiama Media Spree Versenken, per esempio, ne cito uno dei tanti, dei più famosi, che si oppone appunto ai nuovi progetti di infrastruttura che vengono costruiti proprio lungo il fiume, che quindi vedono invadere, diciamo, quegli spazi comuni dei residenti, spazi verdi dove condividono momenti di svago le famiglie, i bambini, vedono la costruzione di nuovi edifici per lavoratori, per call center di grosse multinazionali. Quindi recentemente c'è stato un referendum che poi è stato vinto dai cittadini, ma purtroppo il progetto era già stato approvato dal comune, quindi è andato comunque in porto. che vedeva appunto i cittadini coinvolti in questi quartieri chiedere che venisse lasciata libera questa zona lungo il fiume, proprio perché era una zona vissuta dalla comunità locale. Quindi gli spazi a Berlino devono rimanere liberi per il cittadino. Capisco, grazie, una sensibilità diversa. Tamara, grazie, goditi grazie quella città e anche l'Italia, naturalmente, visto che chi ha la possibilità, la fortuna, il caso di vivere in più di una realtà ed è sempre più diffusa questa situazione, ce lo dicono le statistiche, ma ce lo dicono semplicemente anche le storie di coloro che conosciamo. Hanno naturalmente una visione del mondo che spesso è più ricca, più aperta anche a novità. Ma noi che visione abbiamo qua in Italia, soprattutto di questo invito di Gassman, partecipare, dice lui, facciamo la nostra parte, ripuliamo la città. C'è chi lo accusa tra i nostri ascoltatori di voler coprire le colpe di Marino, c'è chi invece ovviamente se la prende col sindaco Marino per aver portato Roma a questo livello di degrado e di sporcizia, c'è chi invece dice le due cose sono diverse. Attenzione, il comune faccia la sua parte, ma anche noi possiamo partecipare e daremo il buon esempio. Come la pensate? Continueremo a parlarne dopo aver controllato la situazione del traffico. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E dunque, quali sono i fattori che in Italia rendono una città non solo più pulita, ma addirittura più sicura? Perché come abbiamo sentito da Transcrime e da Marco Dugato, tra l'altro questa indagine è stata fatta in collaborazione con il Ministero dell'Interno e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, i furti in abitazione in Italia hanno molto a che vedere, hanno molto a che fare anche con il mix sociale, cioè chi abita un quartiere, come lo vive, quanto lo vive. E la proposta di Gassman viene letta da alcuni, soprattutto coloro che hanno avuto un'esperienza fuori, più che una proposta per la pulizia in sé, per il fine immediato, per stare insieme, per risolvere insieme i problemi di un quartiere e non demandare sempre a qualcun altro. Paolo Inghilleri, buongiorno. Buongiorno. È un altro professore ed è professore ordinario di psicologia sociale dove a Milano. Inghilleri, che ne dice di questa proposta di partecipazione e quanto la bellezza, la nettezza proprio letteralmente di un quartiere può incidere poi sui comportamenti collettivi? Ma io ho l'idea che sia una buona idea questa di Gassman, perché in realtà fa riferimento a una vecchia tradizione italiana, cioè dal punto di vista culturale la società e la cultura italiana era abituata, pensiamo non alle grandi città, ma all'Italia dei comuni, all'Italia delle piccole cittadine. In realtà tutti noi, anche quelli che vivono in città, se pensiamo a queste realtà e magari la realtà dei nostri genitori e dei nostri nonni, vediamo che c'era una forma di partecipazione attiva. E quindi rispetta in qualche modo la tradizione italiana. E perché l'altro, secondo lei, tanti ci dicono ma io pago già le tasse, perché devo anche prendermi la ramazza? Cioè lo vivono come una sorta di furto dei loro diritti. Beh, ma questo però si spiega con altri problemi della società italiana al di fuori di questo della qualità della vita urbana. Cioè c'è un momento, come noi sappiamo, in cui c'è una disaffezione rispetto alla politica, c'è una disaffezione rispetto all'azione dello Stato, e quindi lo legherei di più a questo tipo di disaffezione. Perché se noi vediamo altri meccanismi, pensiamo non so, a tutti i meccanismi cosiddetti NIMBY, cioè Not in My Backyard, cioè quando c'è qualcosa a cui si tiene, per esempio non avere una discarica vicino, l'ipotesi adesso delle scorie nel nucleare che dovranno essere smaltite, piuttosto che a forme diciamo di intervento dello Stato che pensiamo negative, la partecipazione è enorme. Abbiamo tanti esempi di questo, cioè nel senso che la gente riesce a mobilitarsi se vuole. Sì, anche... però è come se si mobilitasse quando c'è una emergenza, cioè non sistematicamente, non accettano tutti di buon grado che sistematicamente si debba avere una partecipazione sull'ordinario, fare un comitato per pulire la strada che già sarà stata pulita dal dipartimento preposto, ma che potrebbe potremmo rendere più bella, ancora più come dire, funzionale. Certo. E questo viene accettato meno, glielo dico anche perché io ho di fronte gli SMS al 349-238-6666 e c'è un po' questa tendenza a sentirsi proprio quasi offesi dalla proposta, sì, di Gassman. Dal punto di vista psicologico c'è anche una spiegazione, nel senso che i processi funzionano bene se qualsiasi processo di intervento decisionale o partecipatorio, se io ho la sensazione di stare, di essere in grado di scegliere, senso di autonomia, di autodeterminazione. Certo. È profondamente collegato poi al senso di benessere. Prima c'era un'ascoltatrice, mi sembra che dice, un ascoltatore, anzi, diceva: io lo faccio perché sto bene. Questo è l'altro versante che secondo me a cui stare attenti. Cioè l'idea che questi processi debbano essere legati a un benessere soggettivo. Allora lì rientra il tema che mi sembra lei abbia accennato, della in qualche modo della bellezza dei luoghi dove noi facciamo questa operazione, dove noi agiamo nella città, e quindi si ritorna a al tema delle periferie insicure ma anche piuttosto carenti dal punto di vista estetico, e quindi qui la responsabilità sia dei politici, sia degli urbanisti, ma anche degli psicologi sociali o degli antropologi, di intervenire per un miglioramento della bellezza o della qualità della vita nelle periferie. È chiaro che una proposta e una situazione di questo genere non esime dai compiti e di responsabilità e di trasparenza dei politici, cioè non è una soluzione per le istituzioni. Guido Borelli, buongiorno. Buongiorno. E lei che insegna sociologia urbana invece ad architettura a Venezia, come valuta questa proposta e che incidenza potrebbe avere? Ma diciamo che la qualità può essere percepita in due modi, come un valore che può essere utilizzato da parte dei cittadini, e quindi i cittadini hanno un diritto alla città e la usano, e dall'altro invece come un valore che viene invece speso come un valore di scambio, nel senso che un quartiere più è gradevole, più è strutturato, maggiore diventa il suo valore. Quindi la bellezza può essere sì un appropriarsi dei cittadini, ma dipende anche come ci se ne appropria, ce ne si può appropriare. Ma queste forme di aggregazione dei cittadini sono una sostituzione, cioè tolgono responsabilità alle istituzioni? Cioè in una città che funziona non ce n'è bisogno, o secondo lei aggiungono altro? No, aggiungono, ce n'è assolutamente bisogno. Il problema è come incentivarle queste, perché io sono assolutamente d'accordo con lei quando dice che ci si attiva solo in situazioni di emergenza e non per l'ordinario. Il problema è proprio quello. E invece all'estero non è così. Spesso, cioè, questo è ordinario ed è normale, quotidiano, anche in città pulitissime, che i cittadini lo facciano perché è importante, perché si sentono loro in qualche modo responsabili anche di questo. Perché in Italia non riusciamo a attivare un meccanismo del genere? Ma dipende, io non generalizzerei, direi che dipende dal rapporto dalle politiche che le istituzioni hanno nei confronti degli spazi pubblici, per cui è importante un'attenzione dei governi locali nei confronti degli spazi pubblici e di mantenerli vivi. Io mi ricordo un lavoro che avevamo fatto alcuni anni fa nella città di Torino, in un quartiere semiperiferico, non particolarmente bello ma non particolarmente brutto. I negozianti si lamentavano del fatto che tutti gli spazi, le panchine, i piccoli parchi erano occupati da cittadini extracomunitari che non facevano altro che replicare le loro tradizioni di incontrarsi all'aperto, mentre invece la nostra società tende ormai a incontrarsi solo più in spazi chiusi o addirittura sulla rete. Quindi questi, i commercianti dicevano: ci rovinano la strada, mentre invece secondo me era vero il contrario. Erano gli unici che ormai mantenevano viva la strada. Noi dovremmo recuperare questo aspetto di delle panchine che spariscono sempre di più, parlando di arredo urbano e del vivere fuori. D'altronde nelle città in Nord America, e sono pubblicati questi negli archivi non solo a Ellis Island ma anche a Toronto, per dire, la polizia faceva delle vere e proprie spedizioni contro coloro che occupavano la strada. Chi erano? Gli italiani, eravamo noi. Quindi in qualche la storia che ritorna, e questa volta siamo noi a cercare di cacciare dalla strada coloro che semplicemente socializzano di più. Vi abbiamo chiesto oggi come valutate questo invito di Gassman. 80-20 abbiamo detto come percentuale, direi forse 60-40, 60 favorevoli, 40% contrario. Dugato, lei ci conferma, questo è un elemento che rende comunque anche le città più sicure. Assolutamente. Grazie naturalmente a Marco Dugato, ricercatore Transcribe, a tutti voi che avete partecipato a questa prima puntata di Spunti di Vista, resa possibile da Alessandro Longoni, da Luca Cremonese in redazione, Silvi Boccaletti, Massimiliano Lollis, da Irene Zerbini. Buona giornata.